Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis, questa sera vi portiamo al campus biomedico di Roma, dove si sta utilizzando e perfezionando un sistema basato su intelligenza artificiale messo a punto originalmente in Cina, che a partire da una TAC, esame ormai largamente diffuso nelle strutture sanitarie, è in grado di riconoscere con grande accuratezza la presenza di polmoniti virali anche allo stadio iniziale. Dell'iniziativa del campus biomedico si è parlato sui media. Noi cerchiamo questa sera di andare un po' più a fondo con l'aiuto di Bruno Beomonte Zöbel, professore ordinario di diagnostica per immagini e radioterapia del Policlinico Universitario Campus Biomedico. Buonasera Zöbel. Grazie, buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, come prima cosa le chiedo di spiegarci un po' meglio in che cosa consiste questo esame e quindi che cosa fa questo software di intelligenza artificiale. Sì, come ha già detto lei, si parte da un esame TAC del torace, disponibile in tutte le strutture ospedaliere. Questo esame produce praticamente tante fette estremamente sottili di tutto il torace del paziente, parliamo di circa 700 fette. Queste 700 fette vengono inviate attraverso una rete elettronica al server di questo sistema che le analizza una ad una cercando le alterazioni presenti nei polmoni. Queste alterazioni vengono prima individuate, vengono valutate con un sistema di riconoscimento d'immagine. In sostanza il sistema sa quali possono essere attribuite alla presenza di una polmonite virale e quali no, poi vengono delimitate, se ne calcola il volume e alla fine si rapporta questo volume al volume complessivo di entrambi i polmoni. Ecco, e quindi si ha diciamo un'idea complessiva della lesione causata dalla eventuale presenza di una polmonite. Che tipo di responso dà da questo punto di vista? Cioè dice questa è una polmonite da Covid o cos'altro? Diciamo che il sistema ha un'alta sensibilità, per cui se non individua alterazioni, diciamo che è altamente attendibile. Viceversa, se le alterazioni vengono ad essere individuate, queste alterazioni possono essere correlate a una polmonite virale, ma non sicuramente a una polmonite virale da Covid-19. Quindi se uno ha una rara, diciamo, polmonite virale da influenza, viene individuata anche quella, nel senso non fa questo tipo di distinzioni sostanzialmente il software. Però in questo momento sappiamo che gran parte delle polmoniti sono poi dovute al Covid-19. Ecco, come si inserisce questa analisi effettuata da questo software di intelligenza artificiale nel processo medico che è in corso in tanti ospedali in questo momento? Diciamo che velocizza questo tipo di valutazioni. In questo momento, soprattutto negli ospedali, per esempio della Lombardia, ci troviamo di fronte a tanti pazienti che hanno questi problemi. La diagnosi di Covid-19, per le ragioni che ci siamo dette, deve essere sempre effettuata attraverso materiale biologico prelevato con il tampone. Però che cosa succede? Che il tampone ha dei tempi tecnici per essere eseguito, invece i tempi qui sono molto veloci, perché la TAC del torace è un esame che si esegue in pochi minuti e anche la valutazione da parte di questo sistema si effettua molto velocemente, quindi in breve tempo possiamo avere una risposta di forte sospetto. In questo caso il paziente viene isolato e si attende ovviamente la risposta del tampone per avere la diagnosi definitiva di certezza. Quindi parliamo di una scrematura, fondamentalmente di togliere dal tavolo del medico, che altrimenti dovrebbe guardarsi, no, per ogni paziente, centinaia di queste fette, lei diceva, sono appunto delle immagini di sezione di polmone, e quindi toglie un bel po' di lavoro dal tavolo dei medici che in questo momento sono sotto pressione. Di questo parliamo. Sì, sicuramente questo. Pensiamo naturalmente al fatto che se un paziente ha la bronchite, ha lo stesso tosse, potrebbe avere una sensazione di spossatezza. Se la macchina analizza e ci dice che non vi sono alterazioni di nessun tipo nei polmoni, abbiamo una certa sicurezza che si tratti di bronchite e non di polmonite da Covid-19, comunque polmonite virale. È vero che nelle fasi iniziali di una eventuale polmonite da Covid questo sistema diagnostico può essere anche, diciamo, più sensibile del tampone? Sì, è vero, perché il tampone si positivizza in genere dopo 2 o 3 giorni dalla comparsa dei sintomi ed è stato visto proprio con l'esperienza dei colleghi cinesi che invece il sistema è più sensibile e addirittura può darci la presenza di alterazioni da polmoniti virali anche in soggetti che non hanno ancora manifestato la sintomatologia. Chi vuole utilizzare questa tecnologia deve spedirvi le TAC. Non si poteva invece far circolare questo software di intelligenza artificiale? Diciamo che il software è un software molto articolato e complesso, ma anche il sistema hardware lo è, ma il motivo non è soltanto questo, perché il sistema debba risiedere da noi, è che in realtà la nostra idea è di far crescere ulteriormente il sistema proponendogli dei casi italiani che sappiamo dal punto di vista epidemiologico hanno differenze rispetto a quelle cinesi, per esempio l'età media dei nostri pazienti è molto più elevata e quindi anche la presenza di malattie concomitanti è differente e tra queste dobbiamo mettere anche malattie polmonari e quindi in qualche modo concentrando su di noi da parte di qualunque ospedale, naturalmente seguendo un protocollo che abbiamo ben definito, la valutazione di questi esami, contiamo di far crescere molto velocemente questo sistema e, come dire, di fargli apprendere in base all'esperienza effettuata sui pazienti italiani. Ricordiamo che si tratta sempre di algoritmi di machine learning che quindi apprendono dai dati, più dati hanno a disposizione, più diventano bravi a fare il loro lavoro e quindi concentrarli tutti nello stesso posto consente di migliorare proprio le prestazioni. Grazie, grazie Bruno Beaumont Zöbel e buon lavoro. Grazie e buon lavoro anche a voi. E allora, cari ascoltatori, anche per questa sera abbiamo concluso. Appuntamento a domani e buona serata.